quello che sta succedendo è che di fronte a un Fiorino Ungherese che ha perso circa il 17% in tutto il 2011, questo 2012 è all'insegna della debolezza ed è un chiaro segnale contro un governo che ha la stragrande maggioranza dei voti in Parlamento e nel Senato, ma di fatto sta facendo i passi sbagliati. Quindi le ultime notizie sono che sembra che il governo voglia fare un passo indietro su quella legge che lei ha citato, che minava l'indipendenza della banca centrale, punto fondamentale per garantirsi un'entrata definitiva in Eurozona, o comunque un accreditamento nell'Unione Europea, al di là del fatto di essere semplicemente nel club, ma soprattutto bisogna dire che entro il primo semestre si dovrebbe arrivare a ottenere la tranche dell'AMF di circa 2 miliardi di dollari secondo una formula di linea stand-by, quindi molto flessibile, che coprirebbe 1,5 miliardi di necessità di nuove emissioni. Quindi non siamo di fronte a un default, ma a un paese, il primo che ha avuto gli aiuti dopo Lehman e successivamente che ha avuto il piano IMF nel 2010, che ha cercato di fare delle prove di dittatura fuori luogo. Quindi ancora una volta la politica sbagliata viene sostanzialmente sanzionata dai mercati, e proprio per la pressione che i mercati continueranno a dare sul Fiorino e sull'economia del paese ci aspettiamo anche ulteriori rialzi dei tassi di interesse.